disorientato ogni qualvolta mi intrometto in argomenti o in un gruppo di persone attente. Scopro che alla fine non comunico sul serio, non capiscono e per primo non comprendo. Fraintendo, mistifico e rinuncio. È arduo rinunciare alle persone per cui vivo. Senz'altro è più sensato ritenere che la folla è la vera solitudine. Le amicizie svaniscono d'incanto al cambiare dei contesti. Sono nato per progredire o per seguire l'istinto. Sono ancora.